Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno a tutte le persone in ascolto, questa è Restiamo Animali, una trasmissione dedicata alle iniziative, alle istanze e alle pratiche del movimento animalista, antispecista e vegan, con l'ambizioso obiettivo di mettere gli altri animali al centro delle notizie, notizie di attualità, ma anche al centro di riflessioni per costruire una società cruelty free. Siamo arrivati alla puntata numero 548, nella quale parleremo ancora una volta del nostro rapporto come specie conflittuale e irrisolto con tutte le altre specie animali, siano essi selvatici come gli orsi o domesticati come i maiali. Ci sarà spazio per una ricetta di cucina gentile e per ottime sonorità. Speriamo di avervi incuriositi. Questa puntata all'orso M49, Papillon, che per la seconda volta, contando esclusivamente sulle sue forze, è riuscito a evadere dalla prigione nella quale lo avevano nuovamente costretto dopo la cattura. Papillon è riuscito ancora una volta a beffare i custodi del cosiddetto centro di custodia per animali problematici al Castellet di Trento, uno squallido recinto nel quale si intendeva recludere a vita il possente e selvaggio re del bosco, paladino della libertà animale. Gli ispettori dell'ISPRA, l'Istituto per la Protezione dell'Ambiente, che sono stati inviati dal ministro Sergio Costa a effettuare un sopralluogo nel recinto, hanno sostenuto che la recinzione fosse molto robusta e che nessun altro orso fosse riuscito a fuggire da strutture analoghe prima di questo soggetto. Sembra che M49 abbia fatto diversi tentativi prima di riuscire a scappare. L'evasione è avvenuta di notte e nessuno se n'è accorto. Non rimane traccia nelle riprese video perché quel punto del recinto non è coperto dalle telecamere. Nessuno degli addetti ha notato che cosa stesse accadendo. Soltanto al mattino, dal tracciamento del collare che aveva addosso, a differenza di quando scappò un anno fa, si è verificato che l'orso era uscito dal recinto. Chi ha visto la rete di Velta commenta: pur considerando la mole dell'animale, che pesa più di 200 kg, la forza e la determinazione mostrate dal soggetto visionando il punto di rottura appaiono fuori dal comune. Per lui è risultata inefficace anche la recinzione elettrica, che funge da perimetro esterno e da separazione delle tre sub-aree interne. Un vero papillon, come il famoso evaso da cui prende il nome, il cui destino adesso fa discutere. Thank you. il 28 e il 29 luglio è stata catturata, radiocollarata e, come prevede il protocollo, subito rilasciata un'orsa adulta accompagnata da 3 cuccioli. Solo l'analisi genetica potrà confermare se si tratta dell'orsa JJ4. Il 22 giugno scorso l'orsa JJ4 era stata accusata di aggressione da 2 uomini, entrambi cacciatori, i quali, durante una breve escursione sul monte Peller, avrebbero riportato alcune lievi ferite dopo un corpo a corpo con l'orso, che li avrebbe messi in fuga. Molto probabilmente si trattava appunto di un'orsa femmina che voleva proteggere i suoi cuccioli. Nessuno può dire come siano realmente andate le cose e tuttavia, senza alcun tipo di indagine di approfondimento, il presidente della provincia di Trento, il leghista Fugatti, non ha esitato a emettere l'ennesimo mandato di cattura e abbattimento per un animale a quel tempo ignoto, se non per le tracce del DNA lasciate sugli abiti dei 2 escursionisti e che hanno rivelato poi che si trattava di un'orsa femmina. Pochi giorni fa, però, una sentenza del TAR, il Tribunale regionale, ha assolto il plantigrado. L'orsa Gaia JJ4 non deve essere abbattuta, in quanto l'aggressione non è imputabile al comportamento problematico di un singolo orso, bensì a un più ampio problema di gestione della convivenza con gli esseri umani. La formulazione di questa sentenza del TAR annulla di fatto le giustificazioni sulle quali si basava l'ordinanza del presidente della provincia autonoma di Trento, diffidandolo quindi dall'abbattere l'orsa. Anche il ministro dell'Ambiente Sergio Costa aveva sostenuto di ritenere spropositata la decisione di abbattere l'orsa. Ma dal Trentino ci spostiamo in Abruzzo, dove cambia anche la tipologia dei plantigradi. Qui infatti troviamo gli orsi marsicani, che sono una sottospecie dell'orso bruno, quello che troviamo in Trentino. Il 22 luglio scorso, un'altra aula di tribunale, stavolta quella della Corte d'Appello dell'Aquila, ha consegnato alla storia una condanna esemplare, destinata, si spera, a indicare un nuovo cammino per la tutela dell'orso marsicano. È stato condannato l'imputato che nel 2014 uccise a fucilate un orso a Pettorano del Gizio perché andava a caccia di galline. La Corte ha accertato la responsabilità civile dell'imputato Antonio Centofanti, 67 anni, ex operaio ANAS, ora in pensione, condannandolo a risarcire il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, nonché le associazioni che si erano costituite parte civile, oltre che a pagare le spese processuali, dunque una bella sommetta. La sentenza d'appello ha ribaltato quella in primo grado del Tribunale di Sulmona, che nel 2018 aveva assolto l'imputato, destando sconcerto e preoccupazione per i possibili risvolti che una tale sentenza poteva avere su chi è poco incline a convivere con la fauna. Purtroppo, a causa di un vizio di forma, la condanna è solo civile e non penale, commentano dall'ente parco. Ma possiamo comunque dire che è una sentenza storica, perché la tutela dell'orso marsicano da oggi ha un'arma in più. Una sentenza, scrivono, che ha il sapore di civiltà e che riconosce la gravità dell'uccisione di questa specie protetta a grave rischio estinzione. Infatti ne restano solo una 60 di esemplari, confinati per lo più nel territorio del Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise. L'associazione Salviamo l'Orso Onlus di Montesilvano commenta così la vicenda. Dopo più di 35 anni e dopo decine di orsi uccisi senza averne scoperto i responsabili, quella di oggi è una sentenza storica. Le sanzioni sono troppo lievi, ma è il primo passo per rendere questo paese un poco più civile e rammentare a tutti che la legge va rispettata. Concludiamo questa parte della trasmissione dedicata agli orsi con un curioso appuntamento. Sabato scorso al Romeo Cat Vegan Bistro di Roma, le associazioni LEAL e Salviamo gli Orsi della Luna hanno organizzato una colazione informativa e conviviale per accogliere l'arrivo del vegan ciclista Paolo Barbon e del suo team Bike for Animals, reduci da un bike tour da Torino a Roma dedicato all'orsa JJ4. Paolo Barbon è il super campione ciclista, pedalatore, attivista animalista e vegan che ha più volte pedalato da Torino fino addirittura a Valencia in Spagna in piena estate con temperature molto alte come forma di manifestazione contro la barbarie delle corride. La nostra redazione lo ha più volte intervistato prima, durante e dopo queste sue incredibili prodezze. Ancora una volta Paolo Barbon sta dalla parte giusta, pedalando per gli orsi. Sul Fatto Quotidiano online abbiamo trovato una buona notizia, se così si può dire. È stato finalmente chiuso l'allevamento degli orrori di Cesano in provincia di Senigallia, grazie ai video dell'associazione Esseri Animali. Avevano indignato l'intero paese, arrivando anche oltre i confini nazionali, le immagini delle ripetute violenze sui maiali. Tra queste c'era l'utilizzo del taser elettrico su alcuni maiali impossibilitati a muoversi, il lancio di alcuni suinetti, i colpi assegnati sui corpi con sbarre di ferro, E ancora, cadaveri lasciati all'aperto, accumulati in vari secchi, o la tremenda morte avvenuta dopo 30 interminabili minuti di agonia di una scrofa malata finita a martellate sulla testa. In seguito alla diffusione dei risultati di questa investigazione, l'orrore generato nelle persone è stato così grande che una petizione per la chiusura di quell'allevamento è stata condivisa e firmata da oltre 280.000 persone. L'indagine è stata realizzata da un investigatore sotto copertura che è stato assunto come operaio e che ha filmato con una telecamera nascosta tutti questi molteplici maltrattamenti e le gravi violenze che gli addetti perpetravano nei confronti degli animali in un allevamento che tra l'altro fa parte del famoso prosciutto di Parma, un marchio che garantisce forse gli standard di sapore, ma evidentemente non controlla né previene trattamenti disumani verso gli animali allevati. Lo scandalo fu seguito da due interrogazioni parlamentari e anche l'allora ministro della salute Giulia Grillo condannò quelle violenze. In seguito alla denuncia, i carabinieri forestali effettuarono un blitz sequestrando la mazza utilizzata per uccidere la scrofa, diversi taser usati al di fuori della normativa vigente, i tubi di ferro con cui venivano picchiati gli animali. Le immagini filmate dal nostro investigatore hanno svelato una realtà di abusi e violenze continui, dice Simone Montuschi, presidente di Essere Animali. Sin dalla diffusione dell'indagine il nostro obiettivo è stato quello di chiudere l'allevamento e oggi possiamo finalmente dire che nessun animale verrà più maltrattato nell'allevamento degli orrori. Un risultato che conferma l'importanza delle nostre indagini, che costituiscono uno strumento fondamentale per far luce sui reati a danno degli animali. La redazione di questa trasmissione non nasconde la sua posizione abolizionista nei confronti di allevamenti e macelli. Pensiamo che far nascere e allevare animali con l'obiettivo di ucciderli e renderli cibo sia la madre di tutte le violenze. Essendo queste vite considerate oggetto e non soggetto, fin dal loro concepimento, non riconoscendo a questi animali il diritto alla libertà e alla vita, non riteniamo proponibile né sostenibile la proposta di mitigare le violenze e addirittura promuovere un ipotetico e astratto benessere che non sia falso, menzognero, solo di facciata. Plaudiamo le coraggiose investigazioni che mostrano a chi realmente appartiene la carne che viene servita in tavola e chi paga il vero prezzo di quella carne, un prezzo molto più alto rispetto a quello di mercato. Siamo anche naturalmente contro ogni tipo di violenza e ancor più radicalmente contrari a quella agita su creature inermi, prigioniere, senza scampo, senza avvocature. Tuttavia riteniamo che imputare questo tipo di violenze a quell'allevamento rischi di distrarre dal vero obiettivo che dovrebbe avere ogni persona sensibile e umana e che dovrebbe essere quello di iniziare a pensare all'allevamento in sé, a ogni operazione di allevamento, come al movente, l'origine, la causa e dunque la legittimazione di ogni successiva violenza verso gli animali. Di oggi andiamo in Lazio, a Tivoli, dove un bue è stato costretto per almeno due giorni a essere esibito con tanto di corna colorate di celeste nel santuario di Ercole Vincitore in una rievocazione cosiddetta artistica a firma della slovacca Petra Feriankova. Il complesso monumentale pubblico ha prima pubblicato le foto dell'esibizione di un animale nelle parti al chiuso del complesso senza accesso ad acqua e cibo. Solo a seguito delle proteste, sulla pagina Facebook del santuario di Ercole Vincitore si sono affrettati a precisare che l'animale è stato affittato assieme a delle capre girgentane da una ditta specializzata, che il colore per le corna è lavabile e che, come richiesto dalla ASL Roma 5, il bue è stato anche all'ombra. La LAV ha condannato la vicenda, che tra l'altro viola il regolamento comunale di Tivoli per la tutela degli animali, che vieta esplicitamente qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico effettuato con o senza scopo di lucro che contempli in maniera totale o parziale l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche. Ma sebbene sulla carta o nelle aule dei tribunali si possa ottenere soddisfazione ai termini di legge, ed è importante farlo, resta l'amarezza di vedere che ancora oggi, nel 2020, qualcuno che si definisce artista mette sotto stress un animale portandolo in un luogo a lui estraneo, tingendo le sue corna, mostrandolo pubblicamente, dunque sfruttandolo e proponendo tutto questo come arte, umiliando così il concetto di arte, nonché il sito di Ercole Vincitore, che invece di acquisire fascino ha creato imbarazzo ed è stato il teatro di un'operazione antiquata e, diciamo, anche piuttosto meschina. All'umiliato bue di Ercole Vincitore è dedicata la ricetta della settimana all'interno della rubrica etico-gastronomica Il pasto gentile, curata dal tosco vegan chef Gabriele Palloni. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Noi siamo quelli che manzi o buoi non li vorremmo vedere sfruttati, ridicolizzati o costretti, tantomeno affettati e serviti in tavola. Noi siamo quelli che non rinunciamo d'estate ad un carpaccio sì, ma di bresaola 100% vegetale. Gli ingredienti per il carpaccio di bresaola veg con rucola sono 200 g di glutine di frumento o instant seitan, 100 g di farina di ceci, 300 ml di brodo vegetale, un cucchiaio di concentrato di pomodoro, 50 g di barbe rosse cotte, un cucchiaio di succo di limone, un cucchiaio di aceto di mele, della menta fresca, delle foglie di alloro, un cucchiaino di senape dolce, 150 g di rucola, olio extravergine d'oliva, sale e pepe. Scaldate il brodo e lasciate in infusione le foglie di menta e di alloro per circa 15 minuti. Quindi togliete le foglie dal brodo e aggiungete le barbe rosse cotte, il concentrato, l'aceto di mele, un cucchiaio di olio extravergine e frullate il tutto con un mixer fino ad ottenere una crema liscia. Mescolate il glutine di frumento con la farina di ceci e impastate con la crema, aggiustando di sale e pepe. Lasciate riposare per 10 minuti, quindi avvolgete l'impasto in un foglio di carta forno spennellato di olio e formate un cilindro. Fate cuocere in forno in modalità statico per 45 minuti a 160 gradi. Togliete dal forno e lasciate intiepidire, quindi fate riposare in frigorifero per almeno 3 ore. A parte stemperate la senape col succo di limone ed un pizzico di sale. Emulsionate con 4 cucchiai di olio extravergine di oliva. Quando la bresaola vegetale avrà riposato, affettatela finemente e disponetela sui piatti. Condite con un cucchiaio di emulsione al limone e coprite con della rucola fresca. Destruction takes over. There is no